Cristo Gesù, sapienza, giustizia, santificazione, redenzione. Ho conosciuto un imprenditore molto religioso, il quale, nell'udire per la prima volta il messaggio del Vangelo predicato sotto una tenda, si arrese completamente alla volontà di Dio. Il mattino successivo, entrò nella sua fabbrica mentre gli operai erano al lavoro e, aprendo le braccia, cacciò un urlo, dicendo: «Sono salvato!». Da quel giorno la sua vita subì una tale rivoluzione, che iniziò a leggere avidamente e incessantemente tutta la parola di Dio, almeno 3 volte all'anno. Non è mai diventato un predicatore del Vangelo, ma appena poteva parlava di ciò che riceveva dalla lettura. E ancora oggi ricordo che uno dei testi biblici da lui maggiormente citato si trova nella lettera ai Corinzi. Ora grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si vanti nel Signore. 1 Cor 1:30-31. Per i primi tempi non ho capito la profondità nascosta in tale verità, e solo con il crescere nella conoscenza ho potuto afferrare, almeno in parte, l'inesprimibile ricchezza donata a coloro che hanno posto fede in Dio tramite Cristo. Per opera di Dio, Gesù è diventato sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Per prima cosa, notiamo che Gesù è la risposta ai nostri bisogni, perché Dio ha fatto diventare Gesù per noi quello che noi non potevamo diventare né avere. Paolo ne cita 4. Sapienza senza sapienza non si può esistere in questo mondo. Si può esistere senza un tetto fisso, si può vivere nella miseria o con una seria malattia, ma mancando di almeno una certa dose di sapienza, intesa come conoscenza, o istruzione meno siamo destinati alla morte. Ho visto documentari relativi all'Africa e l'Australia nei quali i genitori insegnavano ai figli come difendersi dagli animali feroci e velenosi, come del resto in un mondo industrializzato occorre conoscere il pericolo della corrente elettrica o quello della strada. La sapienza diventa indispensabile. Così è pure nel campo religioso. Si cerca Dio, si invoca Dio, ma se non sappiamo dove trovarlo, come invocarlo, a nulla servono i riti religiosi che offriamo. Per questo Dio ha provveduto. Cristo Gesù è la nostra sapienza, cioè colui che ci dice come cercare la verità, dove si trova, come trovare la beatitudine eterna e ogni altra benedizione spirituale. Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Dio ha disposto che Gesù, non una religione né un sacramento, sia la nostra sapienza, e accettandolo come la via, la verità e la vita, sappiamo in quale direzione camminare, dove si trova la verità e come possedere la vita eterna. La sapienza, dunque, non è un insieme di regole o comportamenti, ma è una persona, e come tale si adegua alle nostre necessità, senza imporci di adeguarci alla regola. Non è l'uomo a doversi adattare al sabato, ma è il sabato a essere stato creato per l'uomo. Giustizia è il vero e unico problema dell'uomo nei confronti della sua divinità. È l'essere e rimanere all'altezza morale richiesta. Nessuno, ma proprio nessuno, è in grado di soddisfare le esigenze etiche della legge divina. Perciò, per quanti sforzi compia per essere giusto, il credente rimane mancante. Questo era il problema dei religiosissimi ebrei, i quali osservavano giustamente la legge, pensando erroneamente di aver mezzo di essa la vita eterna. Giovanni 5:39. Quando Saulo da Tarso fu disarcionato dal cavallo in groppa del quale conduceva la religiosa battaglia, finalmente comprese l'inutilità dei suoi sforzi per essere giusto e, da quel giorno, andò ad annunziare un messaggio, riassumibile in ciò che disse nella sinagoga di Antiochia di Pisidia: «Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati e che, mediante lui, chiunque crede è giustificato di tutte le cose, delle quali non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè». Atti 13:38-39. Dunque, come scrisse ancora ai credenti di Filippi, la vera giustizia non deriva dall'osservanza della legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Filippesi 3:9. Questo Vangelo è veramente liberatorio. Ti libera da ogni sforzo per piacere a Dio. Ti libera dalla paura di essere, un giorno, trovato peccatore, perché i tuoi peccati e tutte le colpe ti sono state perdonate, ottenendo così una giustizia eterna. Gesù è la tua giustizia. Io non mi appello alla mia religione per essere giusto davanti a Dio. Non mi appello ai miei meriti, ma mi appello alle parole e all'opera di Cristo. Mi appello alle parole, perché ha detto: «Ora io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio del uomo, lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio». Luca 12, 8. Mi appello all'opera di Cristo, perché sta scritto: «È piaciuto al Padre di far abitare in Cristo tutta la pienezza, avendo fatta la pace per mezzo del sangue della sua croce, di riconciliare a sé, per mezzo di Lui, tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli». Colossesi 1, 19, 20. Anche se sento la condanna del diavolo e la riprensione della coscienza, la mia mente, rinnovata dallo Spirito Santo, mi dice che, mediante l'opera di Cristo, io sono stato reso giusto davanti a Dio e come tale vivo. E, vero che a volte vengo meno all'impegno di essere fedele a Cristo, è vero che il mio amore riconoscente tende a diminuire, ma è pur sempre vero che Cristo rimane sempre lo stesso. È vero che Dio non cambia sentenze, perciò vivo giornalmente ricolmo della consapevolezza di essere gradito a Dio. Essere in pace con Dio non è come essere in pace con un essere umano sempre mutevole. Al massimo io posso allontanarmi da Dio, ma rimango comunque sempre nella sua mano paterna e premurosa. Giovanni 10, 28, 29. Perché Cristo Gesù è la mia giustizia. Esse ha Nuovo Testamento edificazione e aver posto fede nella propria divinità è solo un inizio. In tutte le religioni, la divinità esige anche un certo comportamento, perciò anche Gesù Cristo esige un cammino che piaccia a Dio. Facile da dire, difficile da farsi. Gesù, nell'ordinare di essere perfetti come lo è il Padre nostro, esige niente meno che la pienezza della vita cristiana. Infatti il termine perfezione non si riferisce al cammino senza errori, cosa impossibile da chiedere dei peccatori mancanti quali siamo, ma ad una visione completa della vita cristiana. In effetti Gesù aveva detto poco prima, «Can pitu supeli, siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti». Matteo 6:15. La perfezione della vita cristiana consiste nell'avere una visione d'amore mondiale, non un amore puramente terreno nel fare del bene solo a coloro dai quali siamo ricambiati. Tutti sono in grado di comportarsi così, ma solo i veri cristiani sanno amare chi li odia e li disprezza. Questa è la santificazione che richiede il Padre Celeste ai suoi figli. Niente di meno. Com'è possibile realizzare una tale santificazione, cioè avere un cammino secondo il volere di Dio? Dio stesso ha provveduto. Dopo aver posto una reale fede salvifica nell'opera di Cristo, egli stesso, il Padre di Gesù e la persona dello Spirito Santo, vengono ad abitare nel credente, Giovanni 14:23, in questo modo, prendendo possesso della volontà e del corpo del credente, sono in grado di vivere per lui. Questa verità è espressa dall'Apostolo Paolo in vari modi quando parla di Cristo in voi, Romani 8:10, afferma che il corpo è di Dio, Romani 6:13, e che lo spirito è in voi, Romani 8:11. Da un certo punto di vista la santificazione sarebbe garantita, ma purtroppo il credente di tanto in tanto si riprende la propria volontà e asseconda i desideri della carne e dei pensieri. Ma normalmente il credente non persevera nel peccato, 1 Giovanni 3, 8 a 9, ma se persevera in un cammino contrario al volere di Dio, significa che non è nato di nuovo. Poiché siamo religiosi per natura, con un atto di volontà è possibile ubbidire a certi comandamenti, ma non è possibile essere perfetti, cioè ubbidire a tutti i comandamenti. Come nella parabola del seminatore, alcuni fruttano chi il 30, chi il 60, chi il 100%, Così si può dire che ci sono figli di Dio che vivono nella volontà di Dio, chi il 30, chi il 60, chi il 100%. Ci sono stati profeti e apostoli corretti in tutto, mentre altri loro colleghi, come Pietro, sono stati meno corretti, ma tutti hanno vissuto nella santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ogni caduta non deve essere motivo di scoraggiamento, ma di stimolo a migliorare, perché tutto coopera al bene per quelli che amano Dio. E volere la santificazione è un'altra dimostrazione che Dio è in noi e che noi amiamo Dio. Redenzione. Il termine redenzione ha come sinonimi liberazione, riscatto, svincolo. Gesù quindi è il nostro liberatore, colui che ci svincola da ogni schiavitù. Te, colui che libera il credente dall'ira a venire. 1 Tessalonicesi 1:10, nel senso che il credente non sarà giudicato, né condannato per il male commesso, ma sarà presente al tribunale di Cristo per ricevere i premi. Increduli subiranno un giusto giudizio e saranno promessi, mentre gli altri uomini, conseguentemente condannati assieme al diavolo e agli angeli, che non avranno conservata la loro prima condizione di comunione con Dio. Gesù svincola pure il credente dalla schiavitù delle proprie inclinazioni malvagie, in modo da renderlo in grado di compiere con gioia la volontà di Dio, nel modo giusto, e di poter vivere in armonia la vita. Non è cosa da poco perché, secondo alcune statistiche, molte donne belle e famose, donne che possiedono cultura, talento, sensibilità e passionalità, che hanno tutto, successo, uomini, denaro, applausi, donne che sono scrittrici, poetesse, attrici, fotografe, cantanti, artiste, inseguono come un fuoco fatuo la felicità. Ridono in pubblico e piangono in privato. Sono percorse dall'inquietudine, torturate dall'ansia, aggredite dal male di vivere, depresse, disperate. Gesù è in grado di liberare un credente da una simile drammatica vita, perché, come sta scritto, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Colinzi 5:17. Se Gesù non redime o rinnova la vita di una persona, si può ben dire che questa non ha realizzato la nuova nascita, la sua fede in Cristo è rimasta un'esperienza a livello intellettuale e che ha abbracciato sicuramente la forma religiosa e formale del cristianesimo. Mentre per il cristiano l'unica soluzione a tutti i suoi problemi, la risposta chiave in ogni situazione, il soccorso a tutti i suoi bisogni, la pienezza per la vita presente e per l'eternità sarà Cristo. Pur vivendo ancora su questa terra, il cristiano gode di una gioia divina e, giustificato per fede, ha la pace con Dio, intrecciando con Lui e col suo Figlio una relazione nuova. La parola di Dio è per lui il cibo quotidiano e l'unica autorità e regola da seguire per esprimere la sua fede. La volontà di Cristo regola la sua vita in ogni dettaglio. Il cristiano è trasformato mediante il rinnovamento operato in lui dallo Spirito Santo. Ama ciò che Dio ama e odia ciò che Dio odia. Sente il bisogno di ricercare la comunione con persone che hanno vissuto la sua stessa esperienza e ha il privilegio di soffrire per Cristo, perché gli è stato dato non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Il cristiano non è più solo perché ama in modo nuovo tutti coloro che, come lui, sono diventati figli di Dio per la fede in Cristo. Desidera di conseguenza la loro compagnia e la chiesa locale nella quale si reca costantemente, per lui è motivo di benedizione, di crescita, di servizio, di gioia e di paziente e istruttiva sofferenza. Chi ha scelto Cristo ama ciò che Dio ha fatto, fa ciò che egli ama, in definitiva vive come bisogna morire. Si vanta di Cristo nella morte come si è vantato nella vita. Una simile liberazione è alla portata di tutti. Accettala. Gennaio 2013. Ellero.